No, assolutamente, anzi tutt'altro. Sono passati tanti anni e quindi ci vediamo cambiati, caro Marco, come è cambiato anche il robot. Io, esatto, il tempo passa, siamo arrivati alla 14ª edizione e sempre più ormai un festival diffuso nella città di Bologna. Quest'anno abbiamo per la prima volta il Teatro San Leonardo il giovedì, poi abbiamo il venerdì il ritorno a Palazzo Renzo, che è stato per tanti anni diciamo l'headquarter della parte diurna del festival, e il sabato andiamo all'oratorio San Filippo Neri, che è un ritorno dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso, e poi il Dumbo, che è diventato diciamo la base degli eventi notturni del festival, anche quelli durante l'anno, e il TPO, che comunque è una di quelle venue dove ci siamo trovati sempre bene. Ecco, rispetto agli anni precedenti, rispetto anche al periodo diciamo in cui vi esibivate anche al Teatro Comunale di Bologna, cosa è cambiato Robot in questi anni? Ricordiamo anche che cos'è Robot. Ah, Robot è un festival di musica elettronica e di arti digitali, naturalmente è arrivato alla sua 14ª edizione, per cui ha fatto un percorso, siamo quasi in età di maggiore età, no? Manca poco, e l'anno prossimo faremo l'edizione. Spero. Siete ancora adolescenti però. Siamo ancora adolescenti, però iniziano a sbucare i primi peli. Potete andare a vedere il film VM14. E per cui naturalmente ha avuto un'evoluzione che va anche di pari passo con l'evoluzione del contesto, di quello che è Bologna oggi, di quello che è il mondo oggi se vogliamo, e anche l'evoluzione diciamo della musica stessa. Per cui se nei primi anni magari eravamo soprattutto più ispirati da atmosfere puramente da club, e quindi soprattutto da situazioni di DJ set legati più al dance floor, e anche i festival del tempo erano più legati diciamo soprattutto anche nella parte diurna a situazioni più puramente da dance floor, ora insomma noi cerchiamo di abbracciare pubblici più ampi, ci portiamo dietro naturalmente uno zoccolo duro che ci ha seguito per tutti gli anni, ma acquisiamo anche un pubblico nuovo, giovane, e tendiamo anche a fare in modo che i concerti possano essere usufruiti anche in contesti differenti e anche in modalità differenti, per cui anche da seduti, in oratori, in situazioni di questo tipo, e c'è più ricerca, c'è anche concerti che diciamo anche musicalmente la musica elettronica e la musica rock si sono molto avvicinate, per cui anche i pubblici hanno una maniera di vivere diversamente i concerti, per cui noi cerchiamo di interpretare al meglio tutte queste anime, tra virgolette, dandogli poi il contesto ideale. Senti, una domanda che riguarda la scomparsa di Luigi Sakamoto, no? Voi l'avete avuto ospite insieme ad Albanotto al Teatro Comunale, un ricordo di questo grande artista che insomma è stato abbastanza trasversale, no? Yellow Magic Orchestra, quindi musica elettronica, poi insomma il suo percorso singolo, ma quel concerto lì un concerto particolare. Assolutamente sì, un ricordo bellissimo dal punto di vista umano di Ryuichi Sakamoto, quando è stato a Bologna, una persona veramente elegante, gentilissima, è un grande della musica che sicuramente mancherà alla musica elettronica. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare quel concerto, che è stato tra l'altro uno dei tanti sold out che abbiamo fatto al Teatro Comunale. Erano anni in cui naturalmente il festival stava crescendo, stava creando la sua identità anche dal punto di vista internazionale, e sicuramente la presenza di artisti come quello di Ryuki ha permesso al Robot di diventare poi un festival internazionale. Ci mancherà tantissimo. Edizione 2023, fuori nomi o qualche nome? Allora, naturalmente è un'edizione in cui ho spinto molto l'asticella sulla ricerca, è forse un'edizione coraggiosa rispetto al solito. Ci sono sicuramente dei grandi maestri della musica o dei grandi nomi, come possono essere sicuramente Jeff Mills, che viene per la prima volta al Robot Festival, e Sam Abdulladi, sono sicuramente diciamo le due punte di diamante dal punto di vista della console e del DJing. Però quest'anno, mai come quest'anno, abbiamo veramente tantissime esclusive, tantissime anteprime nazionali e presentazioni di album che devono ancora uscire, come quelli di Forest Wars, come quello di Amnesia Scanner, che è appena uscito, che verranno a presentare in esclusiva nazionale il loro nuovo show audio video che presenteranno insieme al nuovo album. E poi, per dire, la presenza di artisti del passato come i Negative Land, che vengono anche loro in esclusiva italiana, o tante chicche di ricerca tipo il trio di ecco, Universal Tongue, no, scusate, Tongue in the Mind, ecco, perché abbiamo tre progetti con la parola Tongue, che vengono a presentare per la prima volta il nuovo progetto, e sarà anche un progetto, tra l'altro, che si trasformerà in un disco che uscirà fra un mese. E poi va bene avere Team Maker nell'oratorio San Filippo Neri, con tra l'altro un'affluenza tale che ha permesso di avere due concerti, entrambi andati sold out abbastanza velocemente. Quello per me resta anche una delle chicche principali del festival, oltre a tantissime anteprime tipo Anti-Risor del collettivo Niege Niege, Corin, che è un'artista asiatica che viene poche volte in Europa, quindi riuscirà a presentare il suo disco da noi, così come Marta De Pascalis, per restare anche negli artisti italiani, che presenterà in anteprima nazionale il nuovo album, che uscirà fra poco a novembre sulla label di Caterina Barbieri, sempre per restare nel contesto di Bologna. Grazie, buon festival. Grazie a voi. Bocca al lupo.